aggiornamenti riguardo il ricorso presentato lo scorso 7 giugno dal candidato sindaco del centrodestra Edoardo Croci dopo l'elezione del sindaco di Cefalù Rosario Lapunzi alle amministrative di maggio. Quindi leggiamo sul profilo Facebook del sindaco di Cefalù che il ricorso è stato respinto dal TAR. Quindi ci mettiamo immediatamente in collegamento con il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina. Signor sindaco, buonasera. Vediamo se il collegamento è già stato stabilito oppure manca ancora qualche secondo per stabilire la connessione e sentire appunto direttamente dalla voce del sindaco gli ultimi commenti riguardo questa vicenda. Parleremo anche con il professor Edoardo Croci per sentire anche dall'altra parte quali sono i commenti a caldo del risultato di questo ricorso che per l'appunto è stato presentato lo scorso maggio a seguito delle elezioni amministrative di Cefalù. 17:59 CRMP Radio in diretta, vi stiamo fornendo appunto in tempo reale i commenti a caldo di quello che è stato appunto quella che è stata la notizia calda del pomeriggio riguardo il ricorso presentato da Edoardo Croci per quanto riguarda i risultati delle elezioni amministrative dello scorso maggio. Allora vediamo se siamo già in collegamento, capirete insomma che il sindaco in questo momento è abbastanza impegnato anche con altri media, quindi stiamo attendendo di avere conferma per la connessione, altrimenti possiamo anche ascoltare una canzone e poi tornare nuovamente in diretta per fare l'intervista. Verifichiamo se insomma c'è questa disponibilità o in alternativa possiamo anche parlare con il professore Croci. Vediamo cosa mi suggeriscono dalla regia. Allora, edizione straordinaria di CRM News per parlare degli ultimi aggiornamenti riguardo il ricorso presentato lo scorso 7 giugno dal candidato sindaco del centrodestra Edoardo Croci dopo l'elezione del sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina alle amministrative di maggio. Leggiamo appunto sul profilo Facebook del sindaco di Cefalù che il ricorso è stato respinto dal TAR. Quindi siamo in collegamento telefonico con il sindaco di Cefalù. Sindaco, buonasera. Buonasera a tutti voi e ai radioascoltatori. Allora, siamo arrivati a questa notizia che ci dà appunto questa notizia riguardante il fatto che il ricorso è stato respinto dal TAR. Sì, il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato pure condannato alle spese e sono soddisfatto. Mi dispiace per coloro i quali, poi quei pochissimi quali si erano illusi. Si continua a lavorare, per la città, a servizio della città, così come hanno voluto oltre 3.000 cittadini. Assolutamente. Bene, signor sindaco, allora la ringraziamo per questo intervento. Chiaramente ancora... Grazie a voi. È inutile manifestare la mia felicità e mi piace esprimerla insieme a voi, insieme a chi ci sta ascoltando. Signor sindaco, tra pochissimo saremo in collegamento anche con il professor Croci. Vuole mandare insomma un messaggio? No, il messaggio è che il ricorso era piantato, così come il candidato che si è portato alle elezioni. Perfetto, la ringraziamo, buon lavoro, buonasera. Bene, allora adesso ci mettiamo in collegamento con il professore Croci per sentire anche un suo commento a caldo. Non so se la telefonata è subito adesso oppure facciamo ancora una canzone. Va bene, facciamo una canzone e poi torniamo in diretta con il professore Croci per parlare ancora di questa notizia, di questa ultima e caldissima notizia. Allora, torniamo in diretta, dobbiamo chiudere questa edizione straordinaria di CRM News perché professore Croci giustamente insomma si vuole consultare con il proprio avvocato in quanto non è aggiornato sugli ultimi fatti, quindi appuntamento alla prossima edizione di CRM News per ulteriori commenti ed aggiornamenti riguardo questa notizia. Quindi domani su CRM Radio parleremo ancora di questo ultimo argomento insomma caldo che riguarda la città di Cefalù, riguardo il ricorso che è stato respinto dal TAR. Quindi torniamo in diretta con CRM Special News proprio perché appunto è notizia molto fresca dell'esito del ricorso del professor Croci per quanto riguarda appunto le elezioni amministrative, esito negativo. Abbiamo avuto modo di intervistare pochissime ore fa il sindaco Lapunzina e adesso dovremmo avere collegato telefonicamente il professor Croci. Professore, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera professore, avremmo il piacere anche di sentire un suo di commento a caldo per quanto riguarda questo esito. Il primo commento è che mi dispiace per Cefalù e per i cefaludesi perché si troveranno ancora Saro Lapunzina ad occupare la posizione di sindaco, e lo dico non per altro, ma se non per il fatto di mi pare non attrezzato ad affrontare i problemi che ci sono oggi a Cefalù. Se la giunta precedente aveva portato la città sull'oro del baratro, il mio timore è che questa ce lo spinga nel baratro. Sì, assolutamente. Il secondo commento è che naturalmente bisognerà vedere quella che è la motivazione da parte del TAR, nel senso che oggi si sa solo che è stato respinto il ricorso, però dovrà essere questo motivato ed è importante leggerla. A me pare, come pare devo dire a tutte le persone che ho incontrato, che le elezioni di Cefalù siano state sostanzialmente falsate dalla presenza di Vittorio Sgarbi in competizione, pur essendo incandidabile. Bisognerà capire invece come mai il TAR non rileva questa elezione falsata, poi rilevata devo dire anche da una serie di organi dello Stato, il prefetto, il tribunale Trapani e anche altri organi che appunto avevano rilevato questa falsificazione del risultato elettorale, quindi le motivazioni sono importanti. Sì, lei ha già deciso nei prossimi giorni comunque cosa vorrà fare, ha già un'idea comunque di come muoversi oppure ancora vuole valutare meglio quello che sia l'esito di questo, appunto, di questo ricorso? Ma intanto appunto bisognerà leggere le motivazioni e qualsiasi scelta successiva, se fare appello o meno, dovrà derivare dalla lettura attenta delle motivazioni. Qualsiasi cosa può di fare sarà comunque nell'interesse di Cefalù e dei suoi cittadini di avere diritto a un'elezione regolare e non essere considerati dei cittadini di serie B, quindi sarà per difendere una legalità a difesa dei cittadini. Ok, professor Croci, noi, se lei non ha altro da aggiungere, la ringraziamo per questo intervento e la salutiamo, insomma. Grazie, buona serata. Buona serata. E noi ridiamo la linea alla regia, almeno per qualche minuto, in attesa che non ci sia magari una qualche replica del sindaco La Punzina, che forse poteva essere anche all'ascolto dell'intervento del professor Croci. Ricordiamo anche per dovere di cronaca, appunto, è di poche ore fa la notizia dell'esito negativo, del rigetto del ricorso che il professore Croci aveva presentato per quanto riguardava le amministrazioni, le amministrative del 2012, come poi d'altronde lui stesso ha spiegato pochi minuti fa. Noi abbiamo ricevuto questa notizia tramite i social network, che al giorno d'oggi sono un canale molto molto veloce, dal profilo del sindaco stesso, che appunto aveva postato questa notizia, e noi abbiamo, come CRM, ci siamo subito premurati di ascoltare un suo commento, e adesso abbiamo anche ascoltato la replica del professor Croci, e credo che, se dalla regia anche mi arriva un cenno, dovremmo avere nuovamente in collegamento telefonico il sindaco di Cefalù, Rosario La Punzina, per una sua eventuale controreplica. Appunto, il nostro editore si sta premurando di ricontattarlo telefonicamente, sindaco, che sicuramente avrà anche avuto modo di ascoltare queste battute, queste ciò che ha detto, ciò che ha riferito ai nostri microfoni il professore Croce, e magari avrà anche probabilmente qualcosa da controbattere. Appunto, stiamo facendo tutto in tempo reale, questo è il bello della diretta, in questo momento stiamo ricontattando il sindaco di Cefalù e vediamo, dovrebbe essere tutto pronto, vediamo. Sindaco, buonasera. Signor sindaco, buonasera. Ciao, buonasera. Sì, buonasera. Ha ascoltato, ha avuto modo di ascoltare le parole di pochi istanti fa del professor Croci? Sì, ho ascoltato le parole del disperato professor Croci, che è lontano anni luce dalla città, perché egli dice che la città, diciamo, rischia di rimanere col sindaco La Punzina. Il sindaco La Punzina è stato scelto dai cittadini, lui dovrebbe avere più rispetto dei cittadini. E quando dice che la città è stata buttata nel baratro del dissesto finanziario, lo dice a ragione veduta, perché essendo lui un alleato di chi ha fatto tanti guai per il comune di Cefalù, cioè la senatrice Vicca, riconosce bene le questioni. Noi stiamo cercando di aiutare la città e assieme ai cittadini, assieme ai funzionari di questo comune, che lui nemmeno conosce, lui non conosce né le strade né i cittadini, per cui è una persona fuori dal contesto. È soltanto una persona che viene in questo momento strumentalizzata per cercare di convincere magari forse qualche giudice, ma non c'è riuscito perché i giudici erano ben attrezzati da capire che le elezioni non sono state completamente falsate, perché il professore Sgarbi era candidabile all'elezione, al momento in cui si è presentato alle elezioni, e il ricorso era spiantato, come spiantata è proprio la candidatura, era spiantata la candidatura del professor Croci, persona che a mio giudizio, come confermo proprio ancora una volta, fuori dal contesto, che conosce poco le vicende di Cefalù, ed è per questo che è stato bocciato solamente dai cittadini di Cefalù. La distanza che mi porta ai voti del professor Croci sono soltanto di 1300 cittadini. Lui deve avere rispetto non soltanto di tutti gli elettori di Cefalù, ma anche di coloro i quali hanno voluto proprio dire al professor Croci che è meglio che stia a Milano a fare il professore. Sindaco, la ringraziamo per questo intervento. Ovviamente i nostri microfoni sono sempre aperti per qualsiasi ulteriore precisazione e replica, e se non ha altro da aggiungere. Guarda, ci sono poche cose da precisare davanti alla volontà popolare. Quando ci sono state delle elezioni, e ci sono state delle elezioni che sono state fatte in modo democratico, io penso che ci sia poco da precisare. Qualcuno si dovrà pure rassegnare. Ecco, aspettiamo la rassegnazione del professor Croci e di coloro i quali hanno sponsorizzato questo ricorso, perché è evidente che è stato sponsorizzato da chi ancora pensa di mettere le mani sulla città. Bene, la città è dei cittadini, io sono al servizio della città, e sia tranquillo il professor Croci che la città è in buone mani. Sia sereno e si faccia e continui a fare il professore alla Bocconi. Sindaco, la ringraziamo per questo intervento. Prego, arrivederci. CRM Happy Radio. Visita il nostro profilo, fai le tue richieste, posta i tuoi commenti, entra anche tu a far parte della nostra community. CRM